avanziamo in questo dedalo di ambienti sotterranei quando vengo attratta da una parete in fondo al locale. C'è uno stipite in fondo alla stanza che fa da cornice a una porta di accesso, la più antica di tutto questo vano. È uno stipite di pregio e in origine immetteva su una strada pubblica, probabilmente sul piano di calpestio della Civitas Normanna. Da qui si accedeva alla strada, passavano le ruote dei carri, battevano ritmicamente gli zoccoli dei cavalli. Eppure, al di là del muro, mi fa notare Annina, non v'è traccia di un piano stradale, ma di un altro grande vano magazzino, posto ad un piano di calpestio ancora più basso rispetto a quello in cui ci troviamo, con colonne imponenti e volte alte oltre 6 metri. Sprofonda ancora il tempo, sotto di noi. Sono le fondamenta di uno dei più noti palazzi storici della città, Palazzo Accetta, che si affaccia a nord su Piazza Duomo e a est su Piazza La Corte. Nel corso del XVIII secolo, Palazzo Accetta era stato riedificato e anche in questo caso la costruzione era avvenuta per accorpamento di antiche fabbriche poste a livelli diversi, alcune delle quali risalenti al XVI secolo, forse già di proprietà degli stessi Accetta, o forse no, impossibile dirlo. Al loro interno, come porte che si aprono su tempi più antichi, ci sono costruzioni del XII secolo o altre databili addirittura a cavallo dell'anno 1000. Non sappiamo chi avesse varcato queste porte e abitato questi luoghi al tempo della loro realizzazione, ma posso senz'altro dire che appaiono sacri ai nostri occhi e al nostro cuore.